Ascoltatrici, cari ascoltatori di Radio Exalge, buonasera, ben ritrovate e ritrovati a una nuova puntata di Casa da Paes Radio Edition. Mi chiamo Nina Terruzzi, in quest'ora ascolteremo tantissima musica, tutta diciamo sotto la grande campana del jazz contemporaneo. Sono ospite di questa radio speciale che si chiama Radio Exalge e che ha una collocazione fisica a Milano e che in questi mesi difficilissimi per tutti sta provando un po' a rallegrarci con un sacco di idee, di chiacchiere e di programmazioni musicali. Tutti i venerdì sera dalle 19 alle 20 va in onda questa trasmissione. Questa settimana parte ricordandoci che domenica è il giorno più importante dell'anno, il 25 aprile. Il brano con cui apriamo la trasmissione si chiama We Are Soldiers in the Army e viene da un disco che si chiama Songs of Resistance, voluto dal chitarrista Marc Ribot con tanti ospiti. In questo disco c'è una versione di Bella Ciao cantata da Tom Waits, ma noi ascoltiamo un altro brano che è appunto We Are Soldiers in the Army di Marc Ribot e Faye Victor. Because soldiers in the arm. We have to fight, although we have to cry. We have to hold up that bloodstain now. We have to hold it up until we die. Thank you. Abbiamo salutato il 25 aprile con We Are Soldiers in the Army, Mark Ribot e Faye Victor, e dopo Distanti, un brano degli amati figli di Pulcinella dal loro secondo disco Osmosi. È un brano in realtà scritto dal maestro Andrea Vagnoni ed eseguito dal sestetto più amato di Milano. Mentre ascoltiamo adesso un trio, il loro disco è uscito nel 2018, loro sono un po' italiani, un po' francesi, Matteo Pastorino, Claudio Miotti e Jean-Baptiste Pinet, si chiamano Clax. Time and space are no longer limits. I knew spirits and the bits of physics. I don't fucking break that brick. Instead, I felt that state at stake. Ignition, satisfaction, curves on the blood, passion. Smoking priest, I freak now and please. Day after day, night after night, and light the light, we might fight the right fight. When night's fighting on the moonlight, stretch those wings and fly out. Break up the rules, ignite it right. Sharpen your clothes and break those loads. Stretch those wings and fly out. Break up the rules, ignite it right. It's how it's meant to. Drifting in paths is what we do. Felony melody have no more remedies. West mesmerized upon the spell. The brossing flowers tear apart with no longer be. Have you ever been caught in the twist? The state of fit is a state I can test. Dedicated to the last chain, heels and wrists and poles. The gun chop is closed. The falls and brag bros. Frankie breeds now, smoking breeds. The blood passions like satisfaction. Curled on the road. The freight that breaks loads. Big frantic and grub chick and drop that stick ethnic. The fabric is frantic. The gothic chambers stack. The comic logic sack. The matrix matrix and panic and sick drop. Improve my roof and groove the groove. Drop the sticks and groove the roof. Ethnic the frantic drop in check. Hands to stick the comic logic. Matrix hectic and spectics and laws. I'm lost sick, homesick. And pick my groove and groove. Thank you. Kiefer, but no melody. Kiefer, no melody, just a solo. Sam Gendel e Sam Wilkes, music for saxophone and bass guitar, Kiefer, no melody. Sam Gendel è un sassofonista molto interessante, mi piace moltissimo. Negli ultimi anni ha pubblicato molto materiale, l'ultimo è un disco fatto da tantissime tracce di durate diverse, lo trovate su Bandcamp, ma lo ascolteremo. Questo è un disco in due uscito nel 2018, loro sono statunitensi. Mentre inglesi sono le origini di Shabaka Hutchings, questi sono i Sons of Kemet, uno dei gruppi da lui guidato. Il loro disco nuovo sta per uscire, quindi aspettandolo ascoltiamo intanto My Queen is Nanny of the Morons, da Your Queen is a Reptile. Thank you. Thank you. how damp it is. Brandi Younger ed Ezron Douglas sono una coppia nel lavoro e nella vita e hanno fatto uscire questo disco registrato durante la quarantena. L'album si chiama Force Majeure, Forza Maggiore, che è una dicitura che c'è nei contratti di quando si fanno i concerti, no? Cioè che in caso di forza maggiore salta tutto, ma è una cosa che si mette, una clausola che si mette e che non viene quasi mai considerata. Se non fosse che nel 2020 è stata la cosa che più si è letta e i musicisti hanno dovuto gestire questa esperienza dei concerti cancellati per causa di forza maggiore, che sono appunto di solito le pandemie o le calamità naturali o quelle cose che uno pensa che non succedano mai e che invece abbiamo scoperto che eventualmente accadono. Questo disco è bellissimo e il brano che abbiamo ascoltato era Equinox e poi Charanga do França, con Thiago França, che è un sassofonista brasiliano che qui si è cimentato in un funk del carnevale che si chiama Cadena. Anche questa è una canzone di lotta, visto che appunto il tema è sempre la lotta, però in questa settimana in particolare la resistenza. E qui c'è, anche se in un modo meno esplicito rispetto al brano con cui abbiamo aperto, una richiesta di giustizia, in questo caso nei confronti di un ragazzo, un DJ che era stato incarcerato senza motivo, come spesso avviene in Brasile quando si ha a che fare con giovani neri delle periferie. Continuiamo invece con Antelope, un duo pazzerello di tromba e elettronica. Ascoltiamo Fossil Record. Thank you. vedrai dentro i frammenti dell'immagine che tu sei ora qui. Tu dipingerei le ombre di un passato somigliante a te, come se tu fossi qui. Che cosa sei? Strumento informe che non suoni mai. Che non so che me, che te, ma intravedrei dentro i frammenti dell'immagine che tu sei ora qui. qua ancora. Gli ATA non ci sono più, nel senso che sono sciolti, ma i musicisti che componevano questo quartetto esistono e anzi fanno cose. Ma io sono molto affezionata a questo EP che si chiama proprio ATA e che è del 2017, da cui abbiamo ascoltato 85. Loro sono un quartetto, appunto, erano insieme, però insomma sono musicisti che stanno di base a Brescia. Io vi lascio con i Camon Tigre, che sono un gruppo italiano speciale, e vi do appuntamento a settimana prossima, sempre su Radio Exalge, sempre il venerdì 19:20. Un saluto da Nina Terruzzi, da casa da Paese, buona continuazione su queste frequenze e buon 25 aprile. Goes around.